Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. Buongiorno, 800 24 00 24, il numero di telefono per collegarvi con noi, per parlare con l'elefante, ma soprattutto questa mattina con il ministro degli esteri italiano Franco Frattini. Perché? Perché Frattini al nostro microfono? Perché ci sono due cose esplosive nel mondo. Di una abbiamo parlato ieri e sono le borse, la finanza, i titoli atipici. Diciamo quella immensa bad bank piena di titoli tossici che rischia di far esplodere chissà per quanti anni gli equilibri dell'economia e della finanza mondiali. L'altra cosa terribile del mondo contemporaneo è lo stato di allerta pre-nucleare, derivante dal fatto che prima segretamente, poi allo scoperto, un regime rivoluzionario, quello dell'Iran, Teheran, gli Ayatollah, Khamenei, cosa fa? Sta lavorando per ottenere un nucleare che, secondo l'ONU, non è un nucleare civile, cioè un nucleare da spendere in energia, ma un nucleare da spendere in forza militare, deterrenza militare, minaccia militare, innanzitutto verso il grande nemico, il grande Satana, che è lo Stato di Israele. E Frattini, il nostro ministro degli esteri, sta per andare a Teheran con un viaggio concordato con l'amministrazione americana e con gli alleati di grande impegno. Non è esplicitamente dedicato alla questione del nucleare, ma certo ha una immensa importanza in una politica estera che sta girando a mille. Berlusconi è andato da Gheddafi per chiedere perdono per il nostro passato coloniale e per concordare i risarcimenti, in modo da ricostruire un ponte con la Libia che aveva cacciato gli italiani. Il piano Marshall per Gaza, per la striscia di Gaza e più in generale per la Palestina, con forti stanziamenti non solo dell'Italia, ma anche e soprattutto dell'Italia. Berlusconi ha annunciato 100 milioni, sta andando avanti. Insomma, la politica estera è come una trottola, gira vorticosamente. La cosa più importante però è che il punto di partenza è da valutare in modo significativo e intelligente. Il punto di partenza è cambiato, è una vittoria. Non lo dico io, che sono una persona sospetta quando si parla di Bush e dell'Iraq, lo dice Barack Obama. Vi ricordate i cortei pacifisti, le bandiere arcobaleno, giù le mani dall'Iraq, viva il valoroso popolo iracheno? Vi ricordate le polemiche sulla cosiddetta resistenza, le insorgenze terroristiche contro i soldati americani, che sono morti in più di 4.000 per questa... Bene, Obama, Barack Obama, il guru della sinistra mondiale, ha parlato ai Marines venerdì nel North Carolina, Camp Lejeune, e gli ha detto queste parole letterali, virgolette: abbiamo mandato le truppe in Iraq per eliminare il regime di Saddam Hussein e voi il lavoro lo avete fatto. Le abbiamo tenute in Iraq, ricordate le polemiche sul ritiro, per aiutare a insediare un governo sovrano, sempre Obama che parla, e voi il lavoro lo avete fatto, e lasceremo al popolo iracheno l'opportunità, guadagnata con fatica, di vivere una vita migliore, e questo è il vostro successo, questa è la prospettiva che voi avete reso possibile. Complimenti a Tareq Azizi, il numero 2 di Saddam Hussein, che è stato assolto dal tribunale speciale, dalla Norimberga messa in piedi dal governo iracheno e dalla magistratura irachena, e la ciliegina sulla torta, la normalizzazione in un Iraq dove rimarranno, per decisione di Obama, circa 50.000 soldati americani per lungo tempo, come aveva detto Donald Rumsfeld quando aveva detto ci vuole una soluzione coreana. Il Sud Corea è il luogo dove le truppe americane da 30 anni, 40 anni, continuano a stazionare per garantire l'equilibrio mondiale. Una cosa è andata bene, speriamo che vadano bene le prossime. Abbiamo al microfono Franco Frattini e insieme con lui Carlo Panella, giornalista, saggista, autore di molti volumi sulle grandi questioni che riguardano il mondo arabo-islamico, e Renzo Guolo, docente di sociologia dei processi culturali all'Università di Padova, editorialista della Repubblica, anche lui esperto, dei conflitti nella faglia tra le civiltà. Ma cominciamo naturalmente con il ministro, che ringraziamo per essere qui con noi. Buongiorno. Buongiorno ministro. Buongiorno, Frattini. Direttore. Allora, entro marzo a Teheran, e non di soppiatto, si era parlato di una missione archeologica nella città di Bam per andare a verificare come vanno i lavori di ricostruzione dopo il terremoto. No, proprio a Teheran per incontri col ministro degli esteri e per discutere una questione di massima importanza, la stabilizzazione del confine con l'Afghanistan. L'Italia è presidente del G8, lei ha lavorato a lungo per questa conferenza a Trieste, bisogna invitare gli iraniani, va in Iran per discutere con loro il dossier. Sì. Ne ha parlato con Hillary Clinton, tutti sembrano d'accordo, certo. Si dice non parleremo di nucleare, ne siamo sicuri? Ma guardi, in primo luogo è giusto dire che questa amministrazione americana, così come la precedente, insomma, come con gli americani bisogna essere trasparenti, bisogna essere sinceri, quindi bene ha fatto a ricordare che io questa decisione l'ho valutata dopo una consultazione molto sincera con tutti gli alleati, con i colleghi europei con i quali abbiamo parlato già da tempo, ma direi anzitutto con l'amministrazione americana, che ancora non ha pubblicato la sua, quello che con un termine inglese si chiama il nuovo policy paper, la nuova strategia relativa all'Afghanistan e al Pakistan, ma evidentemente mi ha rappresentato una convinzione, la convinzione che se vogliamo stabilizzare o contribuire a stabilizzare la regione forse più pericolosa del mondo, quella che ormai gli addetti ai lavori cominciano a chiamare AFPAC, cioè Afghanistan-Pakistan, perché non sono più problemi separati l'uno dall'altro, dobbiamo coinvolgere tutti i vicini. E allora tra i grandi vicini è ovviamente la Cina che inviteremo, c'è l'India che chiameremo a contribuire, ci sono evidentemente paesi del Golfo importanti con i quali tra l'altro ho parlato ieri proprio in Egitto, l'Arabia Saudita, gli Emirati, certamente l'Egitto stesso, ma c'è anche l'Iran. Io sono stato ad Herat, dove sono i nostri soldati, noi abbiamo quasi 2500 uomini lì e per il periodo elettorale li aumenteremo, sia pure gradualmente, e tutti i nostri uomini, a cominciare dal comandante della provincia di Herat, che è un generale italiano, ci hanno detto: noi qui abbiamo 400 chilometri di frontiera diretta con l'Iran, se con gli iraniani non troviamo un compromesso sul traffico delle armi, sul traffico della droga, su chi finanzia le tribù locali che evidentemente creano destabilizzazione, se non facciamo tutto questo e quindi non coinvolgiamo l'Iran, sarà difficile lavorare. Ecco, scusi Ministro, possiamo essere precisi? L'aumento della presenza militare italiana in Afghanistan è una decisione politica già presa? Noi abbiamo deciso di aumentare entro aprile fino a 2800 uomini e poi evidentemente, e questo sarà un aumento permanente, diciamo, non legato alle elezioni, e questo avverrà con un progressivo dispiegamento delle nostre forze verso la provincia di Herat, che comprende anche il distretto di Farah, dove stiamo mettendo un secondo battaglione, e quella è una zona abbastanza delicata e complessa perché è proprio zona di confine, sottraendo quindi una parte del contingente che attualmente si trova nella regione di Kabul. Prevedete polemiche parlamentari? Noi abbiamo vissuto un'intera legislatura, insomma, un'intera epoca storica dopo la guerra in Iraq, sempre a discutere, e anche in Afghanistan, mandiamo. Non è soltanto. C'è un accordo con l'opposizione, sarebbe una notizia. Noi siamo trasparenti, ne parleremo in Parlamento e spiegheremo che America ed Europa ritengono che la soluzione per quella regione sia una soluzione politica che includa strumento militare come mezzo per garantire la stabilità del territorio, ma comprende anche ricostruzione civile e ricostruzione o costruzione delle istituzioni. In questi tre pilastri c'è evidentemente quello militare, la NATO sta chiedendo apertamente. Ecco, ma devo, scusi Ministro, farle una domanda un po' indiscreta per utilità giornalistica naturalmente, a favore del pubblico. Avete consultato l'opposizione o assisteremo di nuovo, cosa che si potrebbe evitare, anche perché non c'è più Rifondazione Comunista, i comunisti italiani, i verdi, insomma tutto lo schieramento ferocemente contrario all'iniziativa militare italiana nei punti di crisi e fuori dal Parlamento. Li avete consultati? Avremo una decisione bipartisan? Devo dire che nelle scorse settimane, direi negli scorsi mesi, quando per la prima volta questa valutazione è emersa, io ho parlato io personalmente con l'onorevole Fassino, che era allora il ministro ombra degli esteri del Partito Democratico. Oggi c'è qualche cambiamento, ma io non so ancora cosa succederà, ma comunque a quell'epoca un'interlocuzione continua con l'onorevole Fassino c'era, e come è noto il Partito Democratico ha sempre sostenuto, anche in Parlamento, che occorreva una soluzione globale, comprendente sì lo strumento militare, ma solo come strumento. Mi sembra che su queste linee loro potrebbero concordare, tanto più che questo viene chiesto congiuntamente dalla NATO e dall'Unione Europea, nonché dalla nuova amministrazione americana. Ma poi i dettagli evidentemente li discuteremo, come certo, credo sia giusto, in Parlamento. Poi sono le elezioni. Voi avete la speranza che si possa decidere insieme. Ci sono le elezioni di Karzai, le elezioni del nuovo presidente. Il presidente Dica Karzai, pure di Karzai, spero favorito, che non lo sostituiscano. È largamente favorito. Lui adesso ha chiesto di anticipare ad aprile. Io ho dei dubbi su questa decisione, devo dirlo francamente. Entro aprile noi avremo serie difficoltà a impiegare o a dispiegare quelle 200 forze aggiuntive, quei 200 uomini che abbiamo in qualche modo promesso limitatamente ai 4 mesi della campagna elettorale. Se le elezioni si facessero, come era stato detto, intorno ad agosto, noi faremmo sarebbe in tempo. Meglio, certo. No, faremmo in tempo, perché per dispiegare... Una domanda, Ministro, una domanda cruciale e drammatica, gliela faccio fare da un radioascoltatore, Fabio da Napoli. Fabio. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, la mia domanda... Ah, il Ministro al microfono, gli faccio la domanda, ecco, che desidero. Buongiorno. La mia domanda è questa. È improbabile una guerra con l'Iran, visto il potenziale atomico che ha l'Iran? Perché con l'Iraq, diciamo, era tra virgolette più facile agire, perché era un paese da questo punto di vista sguarnito, indifeso. E poi, se mi permette, anche quali saranno i rapporti con gli Stati Uniti d'America? Saranno i soliti rapporti da paese asservito agli Stati Uniti, oppure avranno un profilo più dignitoso, come li tenne anche Bettino Craxi o anche l'ultimo Massimo D'Alema? Grazie. Ma guardi, le rispondo intanto sulla seconda parte. Questo governo, il governo di Berlusconi, non ha mai tenuto comportamento da lacchè verso l'America di Bush, nei confronti della quale il presidente Berlusconi aveva una personale amicizia, e lo dico con riferimento ad una delle crisi internazionali più gravi, quella tra Russia e Georgia, dove noi abbiamo apertamente detto, in dissenso dalla politica di Bush, che la Russia non poteva e non doveva essere isolata, che la Georgia non era matura per entrare nella NATO, così come l'Ucraina, e questa nostra tesi italiana, non in linea con quella americana, è stata poi la tesi dell'Europa ed è oggi la tesi del presidente Obama. Quindi con un esempio le dimostro che noi lacchè degli Stati Uniti non siamo, ma siamo certamente grandi amici dell'America. È chiaro che l'America è il nostro primo partner internazionale, e quando ci chiede un impegno anche con sacrificio ulteriore in Afghanistan, noi non possiamo dire di no. Sulla seconda cosa le dico, una guerra con l'Iran sarebbe una catastrofe per il mondo intero, perché, come lei ha detto giustamente, l'Iran non è l'Iraq, l'Iran è molto più attrezzato, ma è evidente che proprio per questo la non proliferazione nucleare è una priorità assoluta anche della nostra presidenza G8. Non so se è un segreto che svelo, ma non credo che sia un gran segreto. Noi avremo nell'agenda dei ministri degli esteri il tema della non proliferazione nucleare, e avremo le linee guida per rinegoziare il nuovo accordo sulla non proliferazione, che deve essere rinegoziato proprio il prossimo anno. Naturalmente, Ministro, una iniziativa militare contro le installazioni nucleari iraniane è in ogni modo da evitare attraverso l'impegno diplomatico, attraverso certo. le sanzioni, attraverso insomma c'è tutto un percorso per evitarla, ma immagino che anche lei sia d'accordo, non la si può escludere in linea di principio, perché l'idea di un Iran atomico, di un Iran nucleare, vista la natura di quel regime e visti i dichiarati scopi di eliminazione di uno Stato sovrano come Israele dalla, sì. dalla carta geografica, sì. insomma, non è tollerabile. Ma per... io sono assolutamente d'accordo sul fatto che le posizioni iraniane che hanno preoccupato e che preoccupano, voglio dire, non solo noi europei, ma mi permetto di dire anzitutto i loro vicini arabi, che sono certo. estremamente preoccupati, sono posizioni che la comunità internazionale ha il dovere di prendere sul serio. Io mi permetto di continuare ad escludere l'ipotesi di un'azione militare anche per due ulteriori ragioni, perché il mondo cambia, direi, giorno per giorno. Con un abbassamento così forte dei prezzi del petrolio, l'idea di sanzioni che esistono e che l'ONU ha già stabilito, sanzioni effettive, ha un effetto ancora più forte e deterrente. Quindi l'evoluzione dello scenario credo che induca l'Iran a una disponibilità e possa indurre l'Iran a una disponibilità maggiore con la comunità internazionale. Bene, una protesta di un radioascoltatore, e le proteste, diciamo, soprattutto quando sono rivolte contro di me, che ho il diritto al microfono, diciamo, in questa trasmissione, le proteste contro l'elefante vanno subito mandate in onda. E poi una domanda a Renzo Guolo e una domanda o comunque un'interlocuzione a Carlo Pannella con il ministro, che poi alle 9:30, 9:35 se ne deve andare. Daniele da Milano dice che io sto facendo finta. Dica Daniele. Sì, buongiorno. Senta, io ho assistito... Sto facendo finta in che senso? Dica. Come dice? E lei dice Ferrara sta facendo finta che Obama vuole seguire le orme di Bush. Io ho trovato assurdo il suo tentativo, un vero e proprio tentativo di rovesciamento della realtà. Sì. Nel momento in cui lei descrive la politica attuale di Obama come un tentativo di prosecuzione di quella di Bush. Sì. Lei però non contesta, non contesta il fatto che Obama ha annunciato che resteranno per un lungo periodo, oltre l'agosto del 2010, 50.000 soldati americani in Iraq. Questo non lo contesta, no, vero? No, non lo contesta. No. Contesta le dichiarazioni che ho letto, tra virgolette, di Obama fatte venerdì nel North Carolina? No. Non contesto questo, contesto la logica. Aspetti che le rileggo le dichiarazioni. Abbiamo mandato le truppe in Iraq per eliminare il regime di Saddam Hussein, d'accordo? Questa era un po' la certo, politica di Bush, certo. mi pare, no? E voi il lavoro lo avete fatto, dice Obama. Questo è stato uno dei motivi, in realtà. Sì, vabbè, aspetti. Le abbiamo tenute in Iraq per aiutare a insediare un governo sovrano, d'accordo? Si ricorda quando si diceva via dall'Iraq? Ecco, e voi il lavoro lo avete fatto, dice compiaciuto il presidente Obama, e lasceremo al popolo iracheno l'opportunità guadagnata con fatica di vivere una vita migliore, e questo è il vostro successo, questa è la prospettiva che voi avete reso possibile. Secondo lei queste frasi avrebbe potuto pronunciarle anche Bush? No, secondo me lei questo è un tentativo, ripeto, la sua. Ma no, un tentativo, ma stiamo parlando o lei sta facendo un comizio? Io non rovescio niente, io le sto dicendo i dati di fatto, è lei che li deve giudicare, non deve giudicare le mie intenzioni. Permetta che esprima la mia lettura e la lettura di molti. Ma legata ai fatti, se no è lei il fazioso, non io. No, vabbè, può darsi, però mi lasci dire una cosa faziosa e poi la smetto. Prego. Anche io che ero contrarissimo a questa guerra, che trovavo ingiusta e soprattutto sbagliata, come in effetti poi si è rivelato essere molto probabilmente... Forse invece si è sbagliato lei, sempre che lei apprezzi il giudizio di Obama, però, può essere. Però senta, è logico che oggi lì siamo, lì l'America è, e anche io trovo che la cosa più sbagliata del mondo sarebbe girare le spalle, andarsene e lasciare la situazione incancrenita com'è. Siamo d'accordo, via. Siamo d'accordo, c'è solo una piccola differenza, diciamo, di valutazione su... Comunque io le ho citato quello che dice Obama, non quello che dico io, e quello fa testo, no? Grazie Daniele. Guolo per il ministro Frattini. Una domanda devo fare? Sì. Sì, non sapevo di dover fare colui che interroga, no, intanto... Ah, una domanda, o anche esprimere un'opinione nel merito delle cose che abbiamo discusso fino adesso. Ecco, appunto, volevo chiedere al ministro Frattini, in qualche modo questo è un viaggio importante perché rovescia, a mio avviso, un approccio che comunque in passato, non tanto l'Italia, che ha mantenuto i rapporti, almeno insomma... più di altri paesi occidentali. Stringa Guolo. Va bene, allora stringiamo. Allora, si parlerà di Afghanistan. È possibile pensare che con l'Iran si parli solo di Afghanistan? La politica strategica americana non è a comportamenti stagni, cioè prima o poi è evidente che se si coinvolge l'Iran nella gestione della crisi afghana, evidentemente si dovrà anche trovare una soluzione sulla vicenda nucleare. Certo. Ma guardi, il mio obiettivo è molto preciso e molto puntuale, come coinvolgere l'Iran nella stabilizzazione di quella regione, ma anche confermare all'Iran, colgo l'occasione per dirlo, che l'Italia condivide la politica americana della doppia traccia, cioè da un lato offerta di dialogo, dall'altra un no deciso alla bomba atomica iraniana. Questo deve essere chiaro, che nessuno abbia l'idea che io vada a dare avalli in qualche modo. Devo dire che tanti partners europei che hanno fatto la voce grossa negli anni scorsi hanno continuato insediamenti ed investimenti industriali. L'Italia è stata trasparente e sincera, ha congelato lo sviluppo di quelli che c'erano, ma ha mantenuto relazioni diplomatiche con l'Iran. Quindi bisogna essere sinceri in politica estera, io lo sono stato sempre, no alla bomba atomica iraniana, questo certamente, ma se i nostri soldati che sono lì e conoscono meglio di chiunque di noi che sta parlando qui a Roma al telefono la situazione sul terreno, se loro ci dicono l'Iran va coinvolto, io credo che si debba esplorare questa possibilità. Bene, Pannella? Carlo Pannella. La diplomazia è molto bella perché è il regno della fantasia e che permette tra l'altro l'arte dello spariglio, e quindi siamo in una fase di aperture e tutto va bene. Il dubbio che viene rispetto alle possibilità concrete di coinvolgere l'Iran nella pacificazione dell'Afghanistan è come sia possibile, e io non vedo come, evitare che questo si trasformi nel rafforzamento di un Hezbollah afgano. Perché l'Iran così agisce, Hezbollah in Libano è effettivamente un elemento di stabilizzazione adesso, però perché si arma e perché ormai chiede addirittura invece di disarmarsi, come aveva imposto l'ONU, di avere delle armi antiaeree. I paesi del Golfo accusano l'Iran di costruire Hezbollah in Kuwait, in Bahrain, in Arabia Saudita. In Afghanistan c'è una forte minoranza sciita, non si vede come l'Iran possa partecipare, viste queste sue linee strategiche, a una pacificazione, a un controllo del paese, se non attraverso la formazione di una quinta colonna, sì. Hezbollah. Ma lei è contrario all'invito all'Iran a Trieste? No, io sono favorevolissimo, però c'è questo pericolo, dice lei. Bene, ministro. L'obiettivo è proprio quello di cercare una strada. Io non ho ancora in tasca la risposta iraniana. Io chiederò qualcosa e chiederò un impegno sulla base di punti concreti. Ci sono evidentemente delle linee guida che noi vogliamo seguire, alcuni temi che riguardano appunto le aree di frontiera. Voi tutti sapete, e Carlo Pannella meglio di tutti noi, che gli iraniani non amano affatto i talibani, anzi sono avversari storici e quindi possono aiutarci ad individuare le sacche di insorgenza e di estremismo dei talibani. Al contrario, intorno al tavolo ci sarà l'Arabia Saudita e gli Emirati, e credete, non è stato facile spiegare questa convivenza intorno al tavolo, ma ci siamo riusciti, che invece con i talibani hanno avuto ed hanno dei rapporti. Ecco perché, se vogliamo parlare di tutti i temi, dobbiamo avere tutti gli interlocutori. Allora, professor Guolo, sentiamo insieme questa domanda di Lorenzo da Viterbo. Lei ha scritto in un recente articolo di Repubblica, ha detto di essere molto allarmato per questa differenza di valutazione, la controversia tra i vertici del Pentagono, Gates e Mullen, sulla valutazione dei tempi del nucleare iraniano. Nel senso che il capo di Stato Maggiore americano Mullen ha detto ci sono arrivati al momento in cui la bomba diventa una cosa concreta che si può costruire, mentre il ministro della difesa Robert Gates il ministro di difesa nominato da Bush e poi confermato da Obama, ha detto no, c'è ancora un po' di tempo, facciamo attenzione, non è all'ordine del giorno. Lorenzo da Viterbo per il professor Guolo. Lorenzo. Pronto? Eccomi. Lorenzo, buongiorno, siamo qui. Mi sente? Sì, siamo qui tutto orecchi, può cominciare allora, a parlare. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Senta, io francamente, in questi discorsi che fa anche per il ministro Frattini, vedo una cosa diplomatica di base, per un primo alza parola. Ma dicevo una cosa, l'energia nucleare, la tecnologia a questo stato, detto l'Iran, ma chi l'ha fornita? Ecco, è una bella domanda. Non penso che l'Iran vada, non so, per boschi o per montagne a trovare l'uranio. Lì c'è un ruolo della Russia molto importante, credo, no? Solo comunque sentiamo il professor Guolo. Professor Guolo. L'uranio è arrivato da molto lontano. Ricordiamo che i primi accordi per il nucleare iraniano furono presi dallo Shah prima della sua cacciata. E quindi il programma nucleare si sviluppa inizialmente. Dopodiché, da quando Khomeini va al potere, in qualche modo il regime Ayatollah si procura questo uranio in giro per il mondo, come molti hanno fatto, insomma, a partire da un rapporto soprattutto con la Corea del Nord e fino a giungere ormai all'ultima soluzione, quella russa, nel senso che la centrale di Bushehr funziona con combustibile nucleare, appunto fornito dai russi, che ne vogliono comunque il controllo. Adesso c'è una divisione sulla quantità che serve, nel senso che secondo le stime lei l'Iran oggi possiede qualcosa più di 1000 chilogrammi, sì. Mentre secondo appunto, cioè questa è la valutazione diciamo che fa l'esercito americano, mentre secondo gli esperti lei e anche questa tesi che ha sposato Gates sono necessari almeno 1700 kg. Sì, e l'agenzia dell'ONU di Vienna che sorveglia il programma nucleare iraniano con i suoi ispettori, lo dico solo per certo, spiegare. Ecco, qui adesso il problema è capire nella corsa contro il tempo a che soluzione si giunge. Ecco, a me pare, per tornare un po' anche alle cose che diceva Frattini prima, che il tentativo che si sta facendo, e ovviamente il governo italiano non si muove da solo in un dossier così delicato, questo deve essere chiaro, insomma, anzi la preoccupazione degli Stati Uniti semmai in giorni scorsi è stata proprio che non ci siano fughe in avanti, è quella di andare a una sorta di esplorazione, ma è chiaro che la linea di Obama è quella appunto di, come ha già annunciato, di aprire la mano verso appunto chi abbassa il pugno. E quindi in questo caso il tentativo è quello di andare a una trattativa. Il problema è che una trattativa non ha mai un costo zero. È chiaro che a Teheran, se si vuole giungere a una trattativa, ed è l'unica strada alternativa a un'opzione militare, bisogna dare qualcosa. Diceva prima Ferrara, da questo punto di vista però io non condivido la sua valutazione iniziale, che ha a che fare anche col ruolo dell'Iran oggi, perché a mio avviso, nonostante le parole di Obama, e Obama parlava da capo dello Stato, non poteva permettersi certo di infierire sugli uomini che oggi gli Stati Uniti hanno in Mesopotamia, sostanzialmente no, scusi, la guerra scusi, irachena professor ha dato Guolo, una centralità. Scusi, professor Guolo, non è una questione di parole, non è che ha fatto una parata. Obama lascia 50.000 certo, soldati in Iran nei prossimi anni. Poteva uscire dall'oggi al domani. È chiaro, no, dall'oggi al domani. Ma restano lì, esattamente come Bush. Il discorso Ferrara. È chiaro che non poteva partire dall'oggi al domani. Ma perché l'ha detto allora? No, Pannella. Prego, perché ha fatto una campagna elettorale dicendo che rientrava subito? No, ma lasciamo stare, queste sono cose post-elettorali, non ce ne importa niente. Io voglio dire una cosa, scusi professor Guolo, poi naturalmente può essere che io mi sbagli. I soldati americani resteranno lì ancora degli anni con il timbro, il bollo di Barack Obama. Ma è cambiato completamente lo scenario strategico, Ferrara. Oggi è l'ASPAC che conta, non l'Iraq, mentre Bush aveva spostato l'attenzione dall'Afghanistan, Pakistan all'Iraq. E questo è stato il suo errore strategico. Obama poteva dire, cari Marines di Camp Lejeune, questa guerra ha diviso il nostro paese, io ero contrario, ma voi siete stati valorosi nel farla. Così fa un presidente antiguerra. La verità è che l'antiguerra è stata una grande favola democratica per le opinioni pubbliche internazionali e l'agitazione delle bandiere arcobaleno, ma dopo l'11 settembre quella guerra evidentemente andava fatta ed è stata vinta. Questo è una cosa che secondo me chi non la pensa come Michael Moore, chi non ce l'ha con la cabala ebraica dei neocon, chi non getta fango genericamente sulla storia e sui suoi protagonisti, deve riconoscere. Saddam Hussein via, l'hanno mandato via. Stabilizzare un regime costituzionale, l'hanno stabilizzato. E i soldati restano lì a garantire un nuovo equilibrio nel Medio Oriente. Ora, un esperto come lei, uno storico della regione come lei, questo dovrebbe riconoscerlo. Ma guardi, Ferraro, ho detto che è completamente cambiato il quadro. Nessuno discute ormai sul fatto che gli americani non possono uscire dall'Iraq dall'oggi al domani. Queste sono posizioni dilettantesche, chi sostiene questo. È ovvio che non può essere fatto. Il problema è che è l'opzione strategica che è cambiata. Per Obama il problema non è l'Iraq, il problema è l'Afghanistan e il Pakistan, ma per agire anche in quella regione Obama ha bisogno di stabilizzare anche il fronte iracheno e quindi torna in gioco il ruolo iraniano. Questa vicenda dal nucleare al teatro afgano, al teatro iracheno, viene individuato come uno scenario in cui è impossibile prescindere dal regime iraniano, nel bene e nel male, nonostante che Obama, e giustamente questo l'ha detto, mantenga tutte le opzioni aperte anche se decide di parlare col nemico. Questo deve essere ben chiaro. Obama non è che dica parliamo con Teheran col cappello in mano, ma ci mancherebbe, ma è chiaro che è un approccio molto diverso da quello di Bush, questo è evidente, perché lo diceva prima Carlo Pannella, è la stessa preoccupazione dei Frattini o dei generali italiani che dicono bisogna stabilizzare il nostro fronte nella zona di Herat, perché gli iraniani possono causarci problemi. Ecco, questo è il cambiamento strategico, secondo me, rilevantissimo. Comunque, al di là del giudizio sul passato, ora il problema è capire che cosa si farà. Qui c'è una corsa contro il tempo e tutti ci auguriamo che Teheran non disponga di un'atomica. Sono d'accordo con lei sul fatto che lo scenario strategico è cambiato, però insomma io ho passato gli ultimi 5-6 anni della mia vita a battermi perché l'Italia... L'Italia levasse i caveat e partecipasse con più truppe alla guerra complessiva dell'Occidente e della NATO in Afghanistan, e si diceva no perché questa è una richiesta di quel guerrafondaio di Bush. Adesso lo chiede Obama e lo facciamo, ed è giusto che sia così, senza proteste. C'è una continuità strategica incredibile, scusa Renzo. Aspetta. Bene, c'è una domanda che ci permette di uscire da questa stretta del giudizio storico sulla guerra in Iraq. Tanto non troveremo mai un accordo perché insomma è un tema troppo delicato e difficile, sebbene i dati stiano lì, diciamo, a dimostrare la verità oggettiva. Bruno da Roma fa una domanda curiosa, vorrei che Pannella e Guolo ci dessero una risposta. Prima Pannella. Bruno? Sì, buongiorno. Sì, lei è preoccupato per questa tenda, che sa che verrà installata una tenda alla Maddalena? Non sono preoccupato per niente, guarda. Grazie. No, la tenda, dico. Nessuno, insomma. Sì. Volevo dire soltanto una cosa. Si vuole invitare Gheddafi, come ha detto il nostro Presidente del Consiglio, al G8 della Maddalena. Non so se è uno sport pubblicitario o una iniziativa unitaria o è un insieme del G8. Ma allora non si potrebbe... Lui viene invitato come Presidente dell'organizzazione... Scusi, ma non si potrebbe allora invitare ai margini di questo G8 qualche personalità dell'Iran e vedere un po' di discutere un po' di diplomazia, qualche cosa, anziché invitare Gheddafi, che non è che dà un problema al mondo in questo periodo. Ho capito, vabbè. Pannella, questa cosa di Gheddafi, grazie Bruno. Ma è ovvio, Gheddafi non viene invitato, lui non va in albergo e ha anche sempre avuto dei problemi, diciamo, di difesa personale, perché qualche marachella l'ha fatto. Gheddafi non viene invitato in quanto esponente della Libia, perché lui non ha cariche formali in Libia. Lui viene invitato in quanto presidente dell'Organizzazione di Unità Africana, cioè il presidente dell'organizzazione di tutti gli stati dell'Africa. Se si vuole invitare l'Africa al G8 e non si vuole toglierla da questa discussione, la cosa è impossibile. Bisogna per forza invitare Gheddafi, e con cui peraltro l'Italia proprio in questi giorni ha finalmente chiuso una pagina vergognosa, perché bisogna ricordare che questo trattato che noi abbiamo firmato non è un trattato di amicizia con la Libia o di associazione, è il riconoscimento di spaventose responsabilità storiche coloniali e assassine, perché molti massacri ci sono stati, dell'Italia dal 1911 fino al 1945 sul suolo della Libia, e le scuse naturalmente si fanno al governo legittimo della Libia. Quindi è una buona cosa. Come mai è arrivata soltanto adesso, dopo tanti anni di governi, anche molti valorosi governi democratici. Per molte ragioni, una delle quali è il fatto che Gheddafi ha sempre avuto un atteggiamento molto aggressivo nei confronti dell'Italia. Sono espulse tutti gli italiani in maniera vergognosa nel 1970, nazionalizzando tutti i loro beni. Ma non ultimo, una falsa coscienza dell'Italia. Noi continuiamo a cullarci nella convinzione italiano brava gente, nella convinzione che l'esercito italiano si sia sempre comportato da galantuomo nel mondo. No, noi in Libia ci siamo comportati anche in fase monarchica, costituzionale, prima del fascismo, cioè la guerra di Libia voluta da Giolitti, che Pascoli salutò con le parole "la grande proletaria si è mossa", fu una cosa infame. Noi massacrammo i villaggi e i civili libici, non solo, ma uccidemmo e trattammo malissimo i prigionieri di guerra. Si scrive nelle Tremiti o alla Sinara, si vedono i corpi e le tombe di migliaia di soldati libici fatti morire di colera. Questa è una pagina vergognosa. Anche questa carta Gheddafi al G8, diciamo, fa parte, come il piano Marshall per la Palestina, di un attivismo della politica estera italiana molto pronunciato. All'inizio avevamo cominciato con un po' di lentezza, c'era stata l'esclusione dal gruppo 5+1 che tratta e governa la questione delle sanzioni. Sembrava che, insomma, Berlusconi di nuovo facesse fatica. Adesso invece, ora, la politica estera italiana, ne abbiamo parlato a lungo col ministro, ha come uno dei suoi centri, per esempio, il rapporto con la Russia, l'abbiamo visto in occasione della crisi georgiana, eccetera, eccetera. Berlusconi sostiene da sempre, al di là della questione dell'amicizia personale con Putin, sulla quale si fa molto pettegolezzo e molto folklore, che è interesse dell'Europa, diciamo, farsi mediatrice, ponte con la Federazione Russa. Sbaglia in questo? No, non sbaglia, perché oggettivamente poi anche come italiani abbiamo degli interessi, io non mi vergogno di dire, nazionali da difendere, che per esempio è ovviamente un problema legato alla nostra dipendenza energetica, no? Abbiamo visto anche con la crisi dei gasdotti degli anni scorsi che cosa può accadere, quindi è inevitabile che con la Russia si deve mantenere un rapporto, insomma, importante. Il problema è come viene articolato. Ripeto, oggi anche a Washington rispetto a Berlusconi c'è una leggera diffidenza rispetto a iniziative personali, proprio perché è cambiata la valutazione su quella che è stata definita la stampa, insomma, sostanzialmente la diplomazia degli affetti o la politica della pacca sulle spalle. Questo è il problema. Ma è evidente che in un mondo che proprio Obama vuole in qualche modo improntato al multipolarismo, è evidente che anche la Russia va coinvolta, quindi si tratta di capire come avviene che l'Italia ritrovi sostanzialmente un attivismo nella scena europea o mediterranea, non può che essere positivo. Ecco, il problema è capire che secondo me questo tipo di rapporto oggi deve essere sostanzialmente pragmatico, poco ideologico e sostanzialmente non può limitarsi deve trovare un punto di equilibrio tra le esigenze nazionali, di interesse nazionale, e in qualche modo il rapporto appunto con gli Stati Uniti. Questo deve essere bene, sostanzialmente bene. Il Pannella, paro. Lei conosce bene la società iraniana, almeno studia i testi, i fatti da molti anni. Lì ci sono le elezioni. Che variabile possono rappresentare le elezioni per il rinnovo della carica di Presidente della Repubblica Islamica? Ma va detto una cosa fondamentale, se no non si capisce. Le elezioni sono all'interno dell'Islam fondamentalista, cioè chi non è un fondamentalista musulmano non può partecipare al voto, cioè un laico, un democratico, perché non viene proprio permessa la candidatura. All'interno di questo ci sono molte aspettative da parte di Obama. Io credo che anche questa mossa di Frattini dell'Italia vada in questa direzione. Come dire, apriamo una fase diplomatica e diamo ai riformisti, ai fondamentalisti riformisti iraniani la sensazione che vogliamo dialogare con loro, cosa che io approvo. All'interno di questa dimensione c'è una aspettativa per l'elezione dopo Ahmadinejad di Khatami, cioè di un riformista, di una persona che voglia dialogare con l'Occidente. Credo che questa sia un'aspettativa che verrà delusa il 12 di giugno per una ragione molto semplice. Chi ha il potere, 12 di giugno è la data delle elezioni in Iran, per una ragione molto semplice: chi in questo momento controlla il potere vero, che non è quello politico ma è quello teologico, perché è una dittatura in nome di Dio, è l'asse Pasdaran Ayatollah oltranzisti. I Pasdaran controllano peraltro anche quel poco di apparato industriale che c'è, che è tutto finalizzato alla costruzione della bomba atomica. Non vedo come in elezioni che peraltro non si svolgono in maniera democratica, perché materialmente ci sono i brogli ovunque, in tutto, nell'enorme paese, si possa verificare questa svolta. Voglio chiudere però questo mio ragionamento spiegando a Renzo Uolo che la più grande forza su cui Obama può in questo momento fare leva per sfuggire al dilemma cedere alla bomba atomica iraniana o bombardare l'Iran, la più grande arma che lui ha, e per questa ragione ha messo lì Hillary Clinton, che ha votato a favore della guerra in Iraq, è la democrazia irachena. Perché se c'è una possibilità che il regime crolli al suo interno, che è ovviamente lo scenario migliore, il regime iraniano crolli al suo interno, è proprio per l'influenza degli sciiti democratici iracheni che oggi sono al governo, perché c'è stata la guerra. Diciamo che un'altra arma è l'esito delle elezioni in Israele, perché un governo di unità nazionale presieduto da Netanyahu è un deterrente politico molto forte, diciamo, per l'Iran. Loro sanno che qualcosa può succedere da un momento all'altro. Perché... Sì, prego. Posso fare una petizione a favore del soft power americano o smart power americano? Io credo che oggi la più grande possibilità di far cadere il regime, proprio perché abbiamo per esempio una generazione di giovani che ovviamente non condivide gli obiettivi del regime, è quella di una apertura economica totale all'Iran, nel senso che sono i processi di secolarizzazione che erodono all'interno il consenso. Tra il modello sciita iraniano e quello iracheno, anche dal punto di vista teologico, c'è una grande differenza, e sostanzialmente i conflitti che si sono avuti in passato tra Sistani e Khomeini sono ancora oggi tutti sul campo. È difficile che gli sciiti iraniani possano essere influenzati. Sistani è diciamo l'ayatollah sciita iracheno, che è contrario alla rigidità teocratica. No, volevo dire, Sistani è stato, diciamo, messo in luce, liberato, gli è consentito parlare e avere un peso nel mondo sciita, perché l'Iraq è stato invaso. Saddam Hussein è stato cacciato. Chi non è d'accordo con Khomeini va con Sistani in Iran. Va bene. Ringrazio tutti per approfondimenti. Fascismo islamico, Rizzoli, 2007, un libro di Carlo Pannella. La via dell'imam, l'Iran da Khomeini a Ahmadinejad, la terza, 2007, di Renzo Guolo. Grazie a Guolo, grazie a Pannella. In redazione Franca Fossati e Gloria Guerrera. In regia Alessandro Chiappini e Giorgio Mattei. Linea al Giornale Radio e poi Gianluca Nicoletti con Melog 2.0. Grazie, a domani.